Radio 24 Reportage. Gli adolescenti e il lavoro che verrà, di Adriano Palazzolo. Adesso che lavoro vuoi fare? La poliziotta. Perché? Perché voglio fare le multe alla macchina. Perché vuoi fare le multe alla macchina? Chi parcheggia male. Altri lavori, solo questo? No, voglio fare anche la contadina. Perché? Perché contadisco gli animali che sono nel recinto. Elena e Martina sono due bambine di 5 anni che già sanno che lavoro faranno da grandi. A loro si può lasciare ancora qualche anno prima che inizino a pensare per davvero cosa ne sarà della loro vita. Ma ragazzi un po' più grandi cominciano già a interrogarsi sul lavoro del futuro e sul mondo che verrà. In un momento in cui, secondo gli ultimi dati rilasciati dall'Istat, nella fascia di età 15-34 anni la disoccupazione cala al 35,5%, dal 41,1% dell'anno precedente, e scendono al 22,3% i ragazzi che non sono impegnati a scuola né lavorano. Sono 2.035.000, diminuiti di 252.000 unità in un anno. In una scuola che cerca di stare al passo coi tempi, rendendo dallo scorso anno obbligatoria un'esperienza lavorativa non solo negli istituti tecnici, ma anche nei licei, Mario, che ha 17 anni e frequenta proprio un istituto di grafica e comunicazione a Verona, ci spiega l'importanza di fare un'esperienza di lavoro mentre si studia. In parallelo allo studio ci deve essere anche un'esperienza pratica perché applichi un po' quello che hai studiato, perché se tu studi, sei tutto però di fatto manualmente, sai fare poco, per quello ritengo che sia assolutamente necessaria e ne ho avuto anche esperienza appunto. Scuola e lavoro sono proprio due cose parallele, quindi sì, sono due mondi diversi, e per quanto riguarda la scuola sicuramente, io per esempio studio in una scuola tecnica, mi danno una preparazione tecnica e quindi posso lavorare, una preparazione adeguata per lavorare in azienda, però credo che sicuramente chi studia per esempio in un liceo classico, liceo scientifico, necessita comunque di fare anche un'università e fare comunque esperienze di stage per poter esattamente capire anche esattamente quello che gli piace fare al 100% e avere esperienza per capire proprio bene e soprattutto non stancarsi, perché è una cosa molto importante che ho imparato, che nella vita bisogna fare quello che ci piace. Dobbiamo cercare proprio il lavoro, che non deve essere neanche considerato un lavoro, cioè ci deve proprio far passare il tempo. Mario è uno dei tanti speaker di Radio Immaginaria, l'unica emittente radiofonica di adolescenti in Europa, che a Castel Guelfo di Bologna ha dato vita alla Teen Parade, un raduno internazionale per coinvolgere istituzioni, artisti, organizzazioni e imprenditori a sviluppare il tema della manifestazione, i giovani e il lavoro che faranno nel futuro. Una domanda difficile a cui molti ragazzi non sanno ancora dare una risposta precisa, proprio come Ludovica, bolognese di 16 anni, che frequenta il liceo classico. Tantissime idee diverse, adesso vedo dove mi porterà, diciamo, il futuro, diciamo. Cioè, naturalmente dovrei programmarlo io il futuro, perché è questo che riguarda Team Parade, però ho veramente tanti interessi, quindi non riesco ancora a sapere bene le cose. E a me piacerebbe un sacco lavorare nel mondo del cinema, però non ho scelto gli studi giusti per lavorare subito nel mondo del cinema dopo aver finito la scuola, quindi tra qui a 10 anni mi vedo, non lo so, non mi vedo, cioè io di sicuro devo fare per forza l'università prima di cominciare a lavorare, e quindi credo che quello sarà determinante rispetto alla professione che farò poi nel futuro. Tutti continuano a dirmi che se io voglio fare quello che voglio fare, cioè la scenografa, cioè in Italia non c'è nessun tipo di possibilità, perché qua non è molto valorizzato e, diciamo, l'ambito artistico del lavoro, quindi di sicuro anch'io avevo una mezza idea di andare a lavorare all'estero già di mio, e poi ora sono anche più, diciamo, sollecitata a farlo, perché mi dicono tutti che qui non c'è possibilità. E proprio l'estero è uno dei sogni di molti adolescenti che sperano di trovare fuori dall'Italia un mondo lavorativo più consono alle loro ambizioni. In questo contesto un ruolo importante viene svolto dall'Unione Europea e in particolare dal suo braccio esecutivo, la Commissione Europea. Una premessa però va fatta: l'occupazione è un tema di competenza nazionale, quindi spetta ai governi dei singoli paesi trovare le soluzioni giuste per garantire ai giovani, ma non solo a loro, un lavoro. L'Europa però non resta a guardare, come ci spiega Evelina Jelenkowska, capo settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione europea. L'Unione Europea sta promuovendo tante iniziative, l'Erasmus Plus, che è conosciuto molto come un programma di scambio di studi, è anche più ampio di quello, c'è anche la possibilità di andare per esempio a fare uno stage di lavoro, quindi iniziamo dai più giovani. Andando più avanti c'è una piattaforma che si chiama EURES, che ha tutta una rete, che è una specie di ufficio di collocamento che ha messo in piedi l'Unione Europea per aiutare chi vuole andare all'estero a lavorare di trovare il lavoro, dove c'è anche all'interno di questa piattaforma per i ragazzi giovani, perché parliamo di giovani, quell'iniziativa che si chiama Your First Eures Job, cioè il tuo primo lavoro, dove i giovani possono andare a fare i colloqui all'estero per un lavoro e vengono rimborsati i costi di viaggio, eccetera eccetera. Di questo tipo di iniziative ci sono tante, c'è una piattaforma di scambio di apprendimento, di stage, quindi c'è un mondo di opportunità che l'Unione Europea, in particolare la Commissione Europea, mettono a disposizione dei ragazzi. Quello che ovviamente è indispensabile è che loro ne abbiano la consapevolezza. Super Mario Bros., uno dei videogiochi più famosi al mondo. Per molti ragazzi i videogame sono un passatempo, anche se spesso i genitori pensano si tratti piuttosto di una perdita di tempo. Ci sono persone però che hanno trasformato questa passione in lavoro, come Andrea Postiglione, CEO e cofondatore di Mangatar, un'azienda che realizza videogiochi e pubblica anche quelli di sviluppatori indipendenti. È veramente un lavoro, qualche volta ci chiedono, soprattutto i ragazzi. Quello che vogliamo raccontare, sì, è veramente un lavoro. È un lavoro con molte sfaccettature, fatto da team che sono composti da professionisti con esperienze anche molto diverse tra di loro. Nel nostro team, ad esempio, ci sono sceneggiatori, game designer, modellatori 3D, artisti e anche programmatori, quindi con background davvero molto diversificati. Io come ho fatto? Sono stato sicuramente mosso da una grande passione, però questa passione spesso non basta, soprattutto quando poi vuoi creare un'azienda, quando vuoi fare impresa devi poggiare la tua passione su delle conoscenze solide per quanto riguarda come si amministra, come si costruisce un'impresa. Noi siamo partiti creando una startup, cercando fondi di investimento, strutturando un progetto che fosse credibile e effettivamente concreto. Questo ci ha permesso poi di realizzare dei prodotti che effettivamente poi vanno sul mercato, si possono confrontare con competitor anche molto grandi, possono, come dire, avere voce in capitolo su un mercato così grande come quello del videogioco, che è globale dal primo giorno. Se in tanti però non hanno ancora un'idea precisa su che mestiere o professione si troveranno a fare, un sentore comune c'è. I giovani di oggi non cercano un impiego fisso o un lavoro dipendente, ma hanno l'ambizione di diventare imprenditori di se stessi, come Luca, che ha 17 anni e vive a Milano. Credo che il lavoro che faremo noi, soprattutto avendo 17 anni, quindi dobbiamo inventarci qualcosa, e credo che il lavoro come è inteso ora non ci sarà tra 10 anni, quando io potrò intraprendere una carriera lavorativa, e quindi quello che sto cercando di fare è creare una mia dimensione, un qualcosa di nuovo da portare. Sono dell'idea che ci sia qualcosa da inventare che dobbiamo ancora capire, qualcosa da scoprire, e quindi sta a noi l'abilità nel creare nuovi posti di lavoro e nuove occupazioni. A questo proposito, ormai si moltiplicano i progetti che portano l'imprenditorialità nelle scuole. Gianluca Dettori è presidente e fondatore di D-Pixel, società di venture capital. Ha all'attivo un programma di scouting nazionale itinerante che passa dalle scuole per spiegare agli adolescenti come si potrebbe inventare un nuovo lavoro e come si trasferisce una semplice idea in un business plan. L'anno scorso abbiamo raggiunto 5.000 ragazzi di quarta e quinta superiore di tutti gli istituti, e con un percorso che facciamo durante l'anno li aiutiamo a progredire la loro idea fino a trasformarla in una sorta di business plan. In effetti quello che è successo quest'anno, per esempio, che alcuni di questi ragazzi poi hanno costituito la società e sono entrati sul mercato, e siccome erano tutti minorenni hanno dovuto coinvolgere i genitori dal notaio perché non potevano firmare. Quelli che si avvicinano a noi sono quelli che non si fanno prendere dalla paura, dal timore per il loro futuro. Però è chiaro che i ragazzi oggi, se tu hai 17, 16, 18 anni, 19 anni, guardare davanti il tuo futuro, insomma, ci sono dei grandi punti interrogativi che vedi stampati sulla fronte dei ragazzi quando gli parli del loro futuro. Fare l'imprenditore in fondo vuol dire realizzare i propri sogni, trasformare le proprie idee in delle realtà, e quindi ha un'attrattiva molto forte sui ragazzi, perché sei in quella fase della vita in cui ancora tutto è possibile. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.